quando arriva la sera per me, quando arriva la notte per me, e vedo tutti che ti vai da chi, e adesso dimmi anche a te, se te sei sola un po' come me, se te sei stracca perché la via non è. Ma se te perdoni io ci lo so, un altro giorno mi affronterò, un altro giorno faremo passare, e passerà. Quando arriva la sera con te, quando arriva la notte con te, mi sento proprio che va tutto bene. E adesso dimmi anche a te, se ti succede un po' come a me, che ti sorridi perché va tutto bene. Ma se ripenso a ieri lo so, quel tempo perso non importa, però importa che te sei qua insieme a me, e te sei di. Quando arriva la sera per me, quando arriva la notte per me, e vedo tutti che ti vai da qui.